Radio Città Fujiko e il CRAP, Comitato Ricerche Associazione Pioniere, presentano Fumetti a Sinistra, il Pioniere, un mondo dentro a un balloon. Che mondo sarà? Se ha bisogno di chiamare Superman. Che mondo sarà? Fa l'effetto del motore che non va. E bentornati a Fumetti a Sinistra, un mondo dentro il balloon, con la puntata che inizia attraverso l'intervista di Morina Moretti con Domenico Aggazio, che è portavoce dell'Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti Spagna. Questa intervista è in previsione anche della manifestazione in Via del Pratello a Bologna, dove dal 23 al 30 marzo verranno presentati i fumetti della guerra civile spagnola. A 90 anni da quel tragico evento, i balloons ricordano lo scontro tra la democrazia e il fascismo sulla terra iberica. Una storia importante, quella della guerra civile spagnola, assolutamente dimenticata, che invece ricorda in momenti come questi che c'era e c'è della gente che è disposta a metterci il cuore, la faccia e la vita, senza niente chiedere nulla in cambio. E dopo lo stacchetto musicale, la parola dunque a Domenico Aggazio. Domenico Aggazio, buongiorno. Tu sei il referente dell'Associazione Italiana Combattenti Volontari Antifascisti di Spagna per il territorio bolognese dell'Emilia-Romagna. Bene, questa associazione, che così a citarla sembra obsoleta, invece ha un ruolo e fa molte attività. E ci puoi raccontare davvero di cosa si occupa e come si muove per la ricerca, le iniziative e la ricostruzione anche della memoria intorno alla guerra civile di Spagna? Allora, iniziamo col dire che nasce proprio a Bologna una cinquantina di anni fa, ormai quasi 52, e raggruppa tutti coloro che sono andati a combattere per la libertà del popolo spagnolo, del Brigate Internazionale per capirci, tutti quelli che ne hanno fatti parte. E stiamo tornati sul territorio di Bologna proprio con delle iniziative che possono riportare alla memoria un po' più comune e conosciuta quel periodo storico, anche perché quest'anno cadono i 90 anni della guerra di Spagna. La nostra associazione si propone di portare avanti il percorso storico, quindi con ricerche nuove o comunque anche delle borse di studio. Abbiamo anche un database che dicono essere persone esterne, anche internazionali, quindi non solo diciamo da soli, il principale database di combattenti che sono andati a combattere in Spagna, nazionali e internazionali, divisi per categorie, sesso, nome, appartenenze. Quindi abbiamo cercato di tenere ampio e tutto il tracciato di questa umanità che è andata a combattere volontariamente per la difesa del popolo spagnolo. Quindi voi avete comunque ho visto anche un archivio ricchissimo, e chiunque volesse fare ricerca intorno a questo periodo storico potrebbe utilizzare le vostre fonti e i vostri documenti. Assolutamente sì, è a disposizione di tutti ed è a Bologna e al Parri. Poi abbiamo un altro archivio a Milano, però quello su Bologna e al Parri. Ma e si centra soprattutto sulla partecipazione degli italiani in difesa della Repubblica Spagnola? Nel nostro caso sì, abbiamo anche associazioni gemelle in varie parti d'Europa, vabbè, Spagna ovviamente, in Francia, in Inghilterra, ma noi ci occupiamo prevalentemente di italiani. Domenico, ma perché è così necessario tenere viva la memoria su questo pezzo di storia? Perché io devo dire che se ne parla veramente poco ed è uno di quei pezzi dimenticati, però veramente fu invece molto importante naturalmente in quell'epoca, ma non solo, perché ebbe delle conseguenze naturalmente anche successivamente, alla fine della guerra del 39. Però oggi voi pensate che fare iniziative anche di attualità in riferimento a quel periodo abbia un senso? Sono d'accordissimo con te e ho visto anch'io che quel periodo storico è sostanzialmente dimenticato, o comunque non è proprio presentissimo anche nel nostro mondo con persone della nostra sensibilità. A maggior ragione stiamo cercando di fare iniziative più ampie possibile, pubblicizzate possibile, perché lì puoi vedere le pagine più belle dell'internazionalismo antifascista, e quindi fai vedere che un mondo di persone, calzolai, carpentieri, sono andati ad aiutare quel popolo senza volere niente in cambio. Quindi fai vedere che l'umanità, quando vuole, può ancora fare del bene. Ripeto, vedi un minimo di solidarietà che adesso sembra che non ci sia nemmeno più, perché con tutto quello che sta accadendo nel mondo vedi che comincia a perdersi anche il pensiero che si possa fare diversamente. Ti chiederei anche questo, voi state facendo, che è un argomento che a noi interessa particolarmente, una ricerca intorno ai fumetti che sono stati scritti su quel periodo storico, sulla guerra di Spagna in particolare, che non sono tantissimi, e questa ricerca poi sfocerà anche in una iniziativa, ce ne puoi parlare? Sì, certo, volentieri, ringraziandovi come prima cosa per il lavoro che avete fatto e per avermi fatto conoscere una storia di cui non sapevo assolutamente l'esistenza. Quindi il bello di questa collaborazione è anche che ognuno mette un po' del suo nel proprio mondo e tutti quanti impariamo qualcosa. Sì, perché abbiamo scoperto, diciamo, questo fumetto, adesso lo dico visto che non tutti gli ascoltatori lo sanno, abbiamo scoperto questo fumetto a puntate che è Corrida Eroica, che è pubblicata nel Pioniere, in questo giornalino legato all'API, che è un'associazione giovane del Partito Comunista, insomma. Fu pubblicato per 18 puntate e parlava proprio della guerra di Spagna, dedicato ai ragazzi. Infatti, ne avete parlato, non lo conoscevo nemmeno io e non vi ringrazierò mai abbastanza per avermelo fatto conoscere. Lo esporremo insieme ai fumetti di alcuni autori che ci hanno dato una mano anche qui in un modo talmente bello che non potrò mai ringraziarti abbastanza. Abbiamo preso 4 graphic novel per adesso, abbiamo Tomka di Palumbo, No Pasarán di Vittorio Giardino, poi abbiamo La Verdad di Lorena Canottiere e poi abbiamo un fumetto di un ragazzo, Gianluca Spassi se non erro, che ancora deve uscire in Italia, è uscito adesso da poco in Spagna, è quindi ancora in edito in Italia, mi dicono che stia facendo già la terza ristampa e ci ha dato anche lui la possibilità di usare le sue tavole e di esporre i suoi lavori. L'iniziativa sarà al Centro Pace in Via del Fratello dal 23 al 30 marzo e avremo la possibilità di parlare anche con gli autori, forse Stassi avrà difficoltà a venire per motivi legati alla promozione del libro, però gli altri ci saranno e saremo lì per poter parlare di quella di Spagna, a chiedere agli autori cosa li ha spinti, proprio perché sono poche le opere che sono su questo tema, cosa li ha spinti a vedere quel periodo storico con qualcosa che loro potevano usare per dire nella loro arte e poi ricordare insieme quello che è stato, insieme ad alcune iniziative di cui parleremo, tipo la storia la figura delle donne nella guerra di Spagna, abbiamo un libro apposito, oppure una mostra su Gian Dante I, che è un combattente che insieme ad altri dopo la sconfitta è stato internato in un campo di concentramento francese, che lì è una storia che non tutti sanno, che le brigate internazionali poi sono state incarcerate oppure sono state costrette a fuggire e come non sanno molti, e qui chiudo, molti italiani che hanno fatto la guerra di Spagna poi sono stati generali nella resistenza italiana. Thank you. trasmissione rimane nella vivacissima Via del Pratello, perché è già in corso questa esposizione Tutto in famiglia, visioni sulla famiglia al tempo dei sovranisti, e sarà visibile fino al 29 marzo, questo presso la libreria Linus Libera Tutti, sempre in Via del Pratello. E allora con William Piana andiamo a raccogliere la presentazione di Viola della stessa libreria, per un'esposizione che in giorni di integralismo culturale del ministro Roccella vede molti importanti vignettisti dissacrare l'ipocrisia dei moralisti sulla pelle altrui. Dal 12 al 29 marzo 2026, Via del Pratello, Linus Libera Tutti edicola. Siamo con Viola Bertolini dell'edicola stessa. Buonasera Viola. Buonasera a tutti. Allora, questa rassegna, che è veramente estesa, ha un titolo molto particolare: Tutto in famiglia, visioni sulla famiglia al tempo dei sovranisti. Vedo diversi nomi. Si parte il 12 marzo. Come viene portato questo contenuto? Come nasce? Allora, questo contenuto nasce da un dialogo con Giorgio Franzaroli, anche vignettista del Fatto Quotidiano, ma non solo, insomma, sì, autore satirico ben noto. Parte da un dialogo con lui, appunto, sulle questioni di genere, sulla questione delle violenze, dei femminicidi, e soprattutto in questo momento storico è un tema, secondo me, molto importante, anche perché è un po' attaccato, se non sottovalutato, dal governo, ad esempio, che vuole togliere l'educazione affettiva e sessuale dalle scuole, cosa che secondo me è una scelta molto sbagliata e molto grave, perché insomma, invece sono temi che soprattutto i ragazzi molto giovani, insomma, con i ragazzi molto giovani bisogna affrontare, ecco. Certo. Per evitare un'anestesia, ancora peggio uno strabismo su questi aspetti fondamentali della vita, direi anche non solo per i giovani, perché poi c'è un aspetto totale per quanto riguarda i contenuti che stiamo presentando. Il 12 marzo, non solo con l'inaugurazione della mostra, che è una mostra ricchissima, sono tutte vignette dei più grandi nomi tra i vignettisti, insomma, italiani, ma anche con la presentazione di un libro, appunto, di Giorgio Franzaroli, che si intitola L'ora di male educazione sessuale, appunto, ovviamente un libro di vignette satiriche sul tema, che però ci permette, cogliamo così l'occasione, appunto, di ragionare sulla questione anche dell'educazione sessuale e anche della pornografia per come è oggi, quindi dell'eccessiva esibizione del corpo, insomma, della sovraesposizione, ecco, no? Della sessualità e dei corpi, tema appunto legatissimo poi anche a tutto il resto, insomma, no? Alle questioni della violenza di genere e delle libertà di genere, insomma. Certo, e anche di informazione sbagliata, anche se ovviamente quello che hai citato è decisamente più incisivo, e anche l'aspetto di interazione con intelligenza artificiale, mondo digitale, il computer, i social, il messaggio che arriva, insomma, sembra una provocazione, ma per me non lo è, più che altro un'attenzione, che è diverso. Esatto, infatti sì, la locandina è piuttosto, insomma, forte, ma abbiamo scelto questa immagine per quello, insomma, perché è giusto anche essere un po' disturbanti pur di attenzionare, sì, un argomento. E, sì, prima appunto parlavo dei giovani, poi in realtà è una cosa che vale per tutti. Particolarmente parlavo dei giovani perché sono, cioè, diciamo, i nativi digitali, appunto, no? Come tu dicevi un attimo fa, sono quelli che rischiano di più di avere una visione distorta poi della sessualità reale e di quelli che sono i rapporti affettivi poi reali, insomma, no? Dei nomi che posso citare: Altan, abbiamo, beh, ovviamente Franzaroli, Ivan Arkin, Gian Lorenzo Ingrami, Natangelo, Staino, Vauro, e poi veramente c'è LK, un All Star Game, Lido Contemori, sì, è veramente un insieme con Michael e Mirko, più mi interrompo più ne trovo, è veramente molto corposa. Sì, è una mostra ricchissima, veramente, veramente molto ricca. Io sono veramente onorata e felice di ospitarla nel piccolo spazio espositivo di Linus Libera Tutti. e si nasce in famiglia, voluti o non voluti. Nel migliore dei casi, da genitori innamorati, e si forma un gruppo chiuso dove siamo più protetti. Col possesso un po' geloso degli amori e degli affetti. All'inizio tutti emozionati, sopraffatti dalla meraviglia. Ci si abitua poco a poco a vivere in famiglia. E si cresce in famiglia, tra i baci e le carezze, che ti cullano il sonno e le prime tue certezze. Nella quiete di una vita racchiuse in poche stanze, si definiscono pian piano le prime fragili alleanze. E il timore di equilibri incerti ti consiglia come comportarti. E c'è già l'ambiguità del gioco delle parti. La famiglia è un espediente per amare e farsi amare. Ti lascia certe impronte che non puoi più cancellare. E si vive in famiglia in cerca di un'intesa, e con l'intima certezza di essere il centro della casa. Ma arriva quasi all'improvviso, come un miracolo inatteso, quando ti senti più tranquillo, il lieto vento di un fratello, per nascondere lo smarrimento, per reprimere le gelosie, sei costretto ad inventare le prime ipocrisie. La famiglia è il grande sogno di ogni coppia innamorata, ti lascia dentro un segno e ti resta per la vita. E si soffre in famiglia, col tempo aumentano i veleni, le normali frustrazioni e anche gli inganni più meschini. Si impazzisce in famiglia fingendo di essere felici, si sprofonda e si affoga tra gli egoismi più feroci. Sfuggire a una realtà grottesca, metti in tasca una fotografia e sei pronto a abbandonare tutto e andare via. La famiglia tanto amata è una morbida coperta, ma ti lascia una ferita che rimane sempre aperta. Ma all'improvviso gli occhi di una donna e ritrovi quella meraviglia che ti invoglia giustamente a farti una famiglia. La puntata chiude con l'intervista curata da Alessandro Cannella assieme a Luigi Bona, che è il direttore del WOW, che nonostante fosse il più importante museo di fumetti in Italia, è stato sfrattato dal miope comune di Milano. Per trovare i fondi per un trasloco imminente in un altro comune lombardo, è prevista allora un'asta pubblica delle tante tavole offerte in solidarietà dei maggiori vignettisti italiani. Di da giugno è successo che siamo stati un po' tagliati fuori dal bando, nel senso che per poter accedere al bando dovremmo saldare tutti i conti arretrati con il comune, mentre il comune sta riconoscendo nel bando che tutto quello che abbiamo denunciato per anni di cose che il comune avrebbe dovuto fare, sistemare lo spazio, l'aria condizionata, il riscaldamento, allagamenti, eccetera, adesso verranno finanziati a chi entrerà. Una contraddizione pazzesca, bene che l'abbiano riconosciuto, però noi non possiamo lo stesso partecipare al bando perché non ci hanno neanche riconosciuto il valore dei materiali che abbiamo presentato, certificati e tutto per saldare i conti. Una situazione assurda, di questo stanno anche occupandosi avvocati e altro. La realtà è che noi dobbiamo comunque sgombrare da lì, andarcene da lì, non possiamo partecipare al bando e quindi abbiamo problemi di costi di trasloco, eccetera. Stiamo lavorando per spostarci altrove, ci sono diverse città che ci hanno offerto delle possibilità, stiamo concludendo per andare altrove, se poi saremo in due, in tre posti diversi meglio ancora, ma ci sono dei costi che sono quelli legati al salvataggio del nostro materiale, perché ovviamente i costi continuano a esserci, continuano ad andare, abbiamo cose da pagare, abbiamo bisogno di ossigeno, questo ossigeno non può essere dato da una banca che non ha garanzie evidentemente come le vorrebbe una banca, e quindi l'unica nostra speranza è appunto il supporto che finora ci hanno sempre dato anche autori, persone che amano il fumetto, eccetera. E quindi degli autori straordinari, anche autori storici molto importanti come Enzo Lunari, Ma Silver, fino a Zero Calcare, eccetera, autori bonelliani, autori di ogni genere, disneyani, eccetera, ci hanno dato del materiale in dono finalizzato proprio alla vendita a un'asta benefica, quindi anche Finarte, una delle maggiori organizzazioni di aste in Italia, senza costi nostri, per poter realizzare dei soldi subito, per poter andare avanti e finalmente definire, spero molto molto molto presto, perché mai è questione di risolvere tutto, tra un mese dovremmo avere, un mese e mezzo, avere già delle possibilità di annunciare qualcosa, andare altrove, spostare probabilmente fuori Milano, posso dire questo, la nostra realtà. Quindi questa asta con autori che insomma in parte ha già anche citato, wow, Spazio Fumetto però era un punto di riferimento insomma non solo milanese ma appunto anche a livello italiano. Questo vostro lavoro non è stato riconosciuto quindi? No, non è stato riconosciuto per niente, diciamo che ci hanno consentito di rimanere dentro finché non avessero assegnato lo spazio per poter sgombrare, ma pagando. Ma tutto questo appunto è una questione che risolveranno poi anche probabilmente avvocati e altro. Il problema nostro è relativo, noi continuiamo a essere per fortuna un punto di riferimento perché i nostri materiali ci sono sempre, le nostre competenze ci sono sempre, e quindi abbiamo fatto una mostra ad Esio per esempio molto bella che ha portato tantissima gente a vederla, ha funzionato molto bene, tutti i giornali ne hanno parlato, televisioni, quindi noi stiamo continuando il nostro lavoro, stiamo continuando su progetti tra l'altro, anche adesso stiamo lavorando su un progetto grosso, speriamo che appunto anche questo vada in porto, ma continuiamo esattamente come prima, con la difficoltà evidentemente di non avere un posto operativo come era quello di Milano, perché era attrezzato per essere un luogo permanente per la città di Milano, che poi passasse ad altre mani, certamente le mie ormai sono mani da anziano, ma abbiamo giovani, abbiamo persone che ci hanno lavorato e che vogliono continuare a lavorarci, quindi vogliamo continuare, continueremo, sicuramente continueremo, abbiamo bisogno per farlo di un po' di supporto. Ecco, gli originali che vengono messi all'asta sono splendidi, io alcuni non ho avuto quasi neanche guardarli perché avrei voluto comprare tutto quanto io, cosa che evidentemente non è possibile. Sono materiali che spero che chi li compri abbia anche la disponibilità domani a prestarceli, magari per mostrarli in un altro luogo, per far vedere che meraviglie ci hanno offerto autori che normalmente non vendono, Silver, Zero Calcare e altri, ma lo stesso Enzo Lunari, non hanno mai venduto nulla perché non vendono normalmente le loro cose. Quindi è un segno di solidarietà veramente straordinario, e questo non solo ci commuove ma ci dà anche fiducia nel fatto che la gente ha fiducia in noi, gli autori hanno fiducia in noi, e quindi noi siamo obbligati a continuare. Dico wow, dico wow, io dico wow, oh. Ed è una svolta, infatti dico wow, non penso a niente, sono nel mio wow. Ed è una svolta, infatti dico wow, dico wow, dico wow. Ed è una svolta, infatti dico wow, non penso a niente, sono nel mio wow. ed è una svolta, infatti dico wow. Wow, 24 non stop, ascolti wow, Spotify, faccio wow senza bot. Non se la svolta insieme a tutti quanti quelli là. Siamo anche stavolta, resto nella mia galassia. Ed è una svolta, infatti dico wow. Non penso a niente, sono nel mio wow. Ed è una svolta, infatti dico wow. Dico wow, dico wow. Sushi da wow, mica del now, all you can eat, arigato. Non dimmi no, dentro il mio show. Rimango lo, non dirmi svolta insieme a tutti quanti quelli là. Non credi a niente in realtà della mia galassia. Per questa settimana è tutto, quindi l'appuntamento alla prossima puntata. Ricordando che per ascoltare questa trasmissione in podcast l'indirizzo online è www.radiocittafugico.it oppure www.ilpioniere.org. Ciao a tutti.